oggi apriamo la puntata con una triste notizia. Sì, perché ieri è volato in cielo una delle più grandi ali NBA anni 70, il grande Big George McGinnis. Buongiorno a tutti. E buongiorno a te Paolo, tra l'altro una Cassandra che si collega con il last minute, ma confesso che ne ho avuto sentore dopo un aggravarsi delle sue condizioni di salute a 73 anni. Scompare uno dei più grandi giocatori tutti i tempi della ABA e non solo. Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, anni 70, ne parleremo magari nel prossimo Mood Groove, come è giusto che sia. George McGinnis. La famosa hesitation di George McGinnis, il tiro in esitazione. minuti, buongiorno nuovamente amiche, amici sportivi e non sportivi. Oggi restiamo a Bologna, siamo in centro città, è un percorso storico. Due chiacchiere per dare anticipazione di contenuti di cui abbiamo già parlato, ma ora decisamente in espansione. Avremo motivo di conoscerne i dettagli insieme a Marco Dorici in arte. Oddo, buongiorno Oddo. Buongiorno a te Willy, ciao. Allora, buongiorno ai nostri ascoltatori. Traffico insopportabile. Guardi, io sono per fare una rotonda, per cui ne facciamo ovunque, almeno lì fra l'incrocio Zanardi, cioè mamma mia, non c'ho parole. Saluto anche Pietro Rossi che ci deve raggiungere in studio. Tranquillo Pietro, avremo modo poi di completare il nostro Dream Team odierno. Allora, centro città, sala borsa, sede storica per quanto riguarda la cultura, ma anni fa per la pallacanestro. Tre squadre avevano la possibilità di portare i campionati e i percorsi agonistici all'interno, pensate, della sala borsa. La Fortitudo non c'era, giocava allo Sferisterio nel playground adiacente alla Furla in San Felice. Per cui, beh, Oddo, sarà un modo anche per portare finalmente la Fortitudo in sala borsa. Assolutamente, anzi abbiamo colto l'occasione, visto questa sede sicuramente importante e spettacolare, perché entrando in sala borsa, immaginarsi come era l'epoca a vedere giocare le partite. Poi fra l'altro sono quattro le squadre che hanno calcato, perché lì c'era la Virtus, il Gira che era fisso in Serie A, l'Oare che era la squadra delle officine autoriparazioni dell'esercito, dopodiché sparite c'era la Moto Morini. Moto Morini, esattamente, per pensate cui... la passione già da allora. Assolutamente, infatti. E quindi avremo modo poi di aggiungere contenuti, ricordi, qualità, perché Bologna si è sempre fatta bella mostra di sé per quanto riguarda la pallacanestro. L'arrivo in sala borsa dopo un incontro che abbiamo avuto un paio di anni fa per un'esposizione che posso permettermi di dire che ha dato un po' il via a queste idee, Oddo? Assolutamente sì, era una prova, diciamo, ha riscosso successo, tantissimi giocatori che sono passati, sì, ex giocatori che sono passati dalla sala, e la cosa pazzesca era che venivano ad annusare, oltre che a vedere le foto, no, annusare il loro passato, e questo ci ha dato anche la possibilità di avere un contatto per avere ulteriore materiale, per cui la mostra che metteremo in campo, in certo, questo caso sul parquet in sala borsa, ha anche materiale aggiuntivo grazie anche ad alcuni personaggi che mi dicevi che conoscevi anche tu, tipo appunto questo Michele De Lillo che si è palesato lì, non conoscevo. Giovanili Fortitudo, sì, esatto, 74-75, è una maglia bellissima, improponibile coi colori attualmente, visto che era giallo-blu. Io ricordo che nel 79, quando feci la mia prima partita ufficiale, contro la Fortitudo, e questi ragazzini coetanei, 9-10 anni, si presentarono con la divisa SG Fortitudo gialla e blu, e dicevo: ma come, non è bianco e blu, com'è possibile? Infatti, quindi infatti, insomma, anche nel fascino della divisa cestistica in questo caso troveremo curiosità, aneddoti, percorsi e anche, perché no, Oddo, una bellezza estetica. Assolutamente sì, anche se guardando quelle canotte dici: ma come cavolo facevano a portarle, perché erano importabili, un po' per la dimensione e un po' per il fatto che comunque era un cotone molto peso, ma cavolo, e le scritte, sì, esatto, erano cucite con del materiale particolare. Fra l'altro, un piccolo aneddoto: è stato si era riprovato a fare una vecchia canotta della IEB, ti dico, la spesa era improponibile per rifarla proprio com'era. Esatto, anche perché all'epoca c'era un'azienda che era la Cam Sport, che era in San Felice che faceva queste canotte. Noi abbiamo bellissimi oggetti, maglie, ma anche dei gagliardetti griffati Cam Sport, grazie appunto ad alcuni tifosi che ci hanno dato del materiale. Infatti a breve avremo modo anche di parlare, per partecipare, dare un contributo alla crescita di questa iniziativa. Intanto Idris Muhammad, Super Bad, a tra poco. William Piana, Marco Odorici, Mood Groove, Radio Città Fujiko. Una modalità diffusa nei club, soprattutto a Bologna, in quanto tante le società che offrivano al settore giovanile la cosiddetta divisa da gioco, il passaggio tra le categorie da mini basket a propaganda, ragazzi, allievi, cadetti, juniores, ed era particolare trovare chi in categoria superiore per motivi di età ti vedeva con la canotta dell'anno precedente e diceva: e trattala bene, che quella l'avevo io. Ma intanto, allora, è un'esposizione per tutte e per tutti, non solo per atleti, chiaramente per appassionati. Ci tengo a sottolinearlo, l'entrata è gratuita, ovviamente, cioè l'accesso è assolutamente libero, per cui collaborazioni. Intanto, chi tu sei tra i curatori, tra gli organizzatori? Sì, sono tra gli organizzatori, diciamo che sono un aggiunto lì. Appunto, c'è un gruppo che ha creato questa associazione Museo Fortitudo, dove, diciamo, il Deus in Machina è Filippo Ossola, sì, tra virgolette. Salutiamo. Esatto, un saluto a lui. Poi ci sono Dal Mugnaio, poi c'è il fratello di Federico, Filippo, scusami, Filippo e il fratello Federico. Filippo Ossola, sì. Esatto. Che è stato un atleta della Salus. Sì, esatto. Infatti lui giocava in Salus, che anche qua c'è questa dicotomia particolare. Sì, perché appunto facevo fatica a capire quando si... Esatto, perché la Fortitudo SG non poteva avere il settore professionistico, quindi era diviso in due. C'era la Salus, che era la SG, e la Fortitudo Pallacanestro, che era quella attuale, anche se appunto veniamo da un fallimento. E poi l'ultima persona è Matteo Naldi, che è diciamo l'ultimo che completa questo quartetto di pazzi che hanno avuto questa idea. Last but not least, direi. Esatto, infatti. Se ne è dato da fare. Poi ci sono una serie di altri collaboratori che stanno dando una mano per l'allestimento, fra i quali ad esempio voglio ricordare Francesca Ferro, che è quella che sta curando anche un libretto che uscirà con alcune canotte che saranno messe in mostra, per cui ci sarà anche questo libro, questo pamphlet, chiamiamolo così, livello. Esatto, che accompagnerà la mostra. Un catalogo alla mostra. Esatto, bravo, un catalogo vero e proprio. Vedo che stanno arrivando diversi messaggi, quindi ci sarà tra il pubblico chi vuole comunicare anche notizie sul traffico, che sono ben accette, così aiutiamo. Propongo la petizione. Da Radio Zanardi. Marco, si inizia ufficialmente? Il 14 alle ore 12, esatto, siamo a tiro. Il 14 alle ore 12 ci sarà l'inaugurazione e alle ore 14 sarà aperto al pubblico. Bene. Orari di sala borsa, sì. Quindi alla domenica chiusi, il sabato si chiude un'ora d'anticipo e ovviamente sotto le feste sono chiusi e si arriva fino al 29. C'è un progetto, siccome è diventato associazione, domanda ovviamente non dico banale ma di percorso, in conversazione, progetti futuri ovviamente. Sì, la grande idea sarebbe quella di avere un museo permanente, questo è ovvio. Esatto. E, diciamo che però secondo me, questo per una mia opinione, dovrebbe intervenire in questo caso anche diciamo la società in qualche maniera a poter dare la permanenza fissa. Teniamo conto che adesso al Paladozza si farà questo spazio museo che a quanto capito dall'assessore, che fra l'altro sarà presente alla presentazione, inizialmente lo disse poi 2 anni fa, dovrebbe essere un museo itinerante, no? Uno spazio dove lì arriveranno tutte robe legate, tutte mostre legate alla pallacanestro, ma probabilmente non solo, uno spazio espositivo a ridosso del Paladozza, cioè a ridosso, dentro vicino, il Paladozza, certo. Dentro il Paladozza. Allora, come ben sapete, il mio cuore, seppur da tifoso un po' particolare, perché io andavo a Palazzo come si va a teatro, io conoscitore e ex atleta, andavo a Palazzo per... Io conoscevo gli attacchi di tutte le squadre di A1 e di A2, adesso non capisco più niente di pallacanestro perché è completamente cambiato, non riesco neanche a guardare una partita, però io conoscevo come affrontava la 3-2 l'Istituto Fermi Perugia, ecco per dire, io non perdevo una partita delle due bolognesi in Piazza Zarita, e quindi un tifoso un po' particolare, però come ben sapete il mio cuore, seppur così atipicamente, batte per la F Scudata. Allora, tu hai portato questo disco dove c'è l'inno. Sì, lo volevo, esatto, proporre. Dai, è l'inno degli anni d'oro, Fortitudo. Scritto da Curreri, in stadio. Questo caso, esatto, stadio. Corri qui a gridare ai ragazzi, non ci arrendere. Odo, hai un merito, sei riuscito un po' a scuotere anche il mio animo. Ho visto, che mi fa piacere. Fra l'altro, so, questo brano. Che ci posso fare? No, ma fra l'altro ha una verve non indifferente. Tra l'altro, poi Curreri, voglio dire, la sua esperienza ce l'ha, si sente benissimo la sua voce. Fra l'altro, era giusto ricordare che c'è la collaborazione di Nosei e anche di Franz Campi. Franz Campi, che ha collaborato per il nostro crowdfunding abbonamenti Radio Città Fujiko. Prendete esempio da Franz, che oltre a essere un playground di artisti appassionati di basket è anche compagno e amico di Radio Città Fujiko. Ricordiamo www.radiocittafujiko.it per la nostra e la vostra radio. Allora, non essere tratto in inganno dall'accento toscano, ma ti presento, seppur con lieve ritardo, Pietro Rossi. Ciao, buongiorno Pietro. Allora, Pietro è un tifoso Fortitudo, tra l'altro. Io, grande, quando ho visto la sua collaborazione con Radio Città Fujiko, beh, tu fai il Mood Groove, che ho ascoltato, ma è bellissimo, anch'io sono appassionato, ma dico, sei giovanissimo, e invece non dico enciclopedico, ma è molto competente per la pallacanestro seguita dal Mood Groove. Quindi grazie per la tua partecipazione alla puntata odierna, che vede protagonista la squadra, mi permetto di dire, che nel cuore ti sta, anche se da oltre Appennino. Beh, d'altronde, come dire, orfani a Firenze di una squadra seria, e sia mai che un fiorentino driva una squadra di Siena, perché Siena non era, ovvio, non era possibile. Ovvio. La più vicina era Bologna e Mancinelli. Io, come spiego sempre a Willy, rimasi ammaliato dal mancio. Ora, devo essere sincero, il motivo inizialmente perché ero piccolo, il mancio mi sembrava un bel ragazzo e pensai da piccolo, bah, sai mai divento come lui. Spoiler, non è successo, però lui mi è rimasto molto simpatico, gli anni dell'Eurolega, poi il fallimento, poi il ritorno con lo stesso mancio. Seguita la Fortitudo. Stefano è un pilastro fondamentale per la nostra tifoseria, perché comunque sia è uno di quelli che ha detto apertamente, piuttosto che andare a giocare in Virtus, io sto senza lavoro. Per cui questo è diventato è idolo. Assolutamente, lui sì, assolutamente è un idolo di quelli. Alla Nino Pellacani. Certo, assolutamente. Avete contattato Black Nino? Sì, ma tutti i giocatori che sono passati l'anno scorso, 2 anni fa, sono stati contattati e speriamo di vederli durante il periodo della mostra, oltre che all'inaugurazione. Ovviamente, per cui con Pietro e anche con Paolo Onofri, che ci sta seguendo da remoto, come delegazione del Mood Groove andremo a visitare il Museo Fortitudo. Vi aspettiamo e daremo supporto. Allora, stacco musicale e poi torniamo tra pochissimo con Marco Oddo Dorici. Balla e difendi, il suo format che è andato ieri sera, di cui parleremo. Faremo un piccolo spot anche per Balla e Difendi. Dai, perché no? Perché è un po' un ossimoro. Balla e difendi e mettere assieme il diavolo e l'acqua santa. Balla è divertente, difendere un po' meno. Però dai, ma riusciamo poi ti spiego come si può fare. Si può sì, fare. Sì, ne ho bisogno, devo è imparare necessario. A difendere, ne ho bisogno. A tra poco. We'll be right back. Rivale della vecchia casa con autorità. Get off the mind the pleasure per rientrare in diretta al Mood Groove. Grazie Paolo. Beh, la sede espositiva è quanto mai prestigiosa, è la Sala Borsa nel centro di Bologna, ma per la Fortitudo questo ed altro. Pensa cosa arrivo a dire. Pensa quanto hai risvegliato il mio cuore. Tanta roba, sono contento. Spero di vederti al museo e dopo magari vedere anche la Fortitudo, che adesso sta andando. È una proposta. Settimana scorsa gli ho detto: Willy, ma se andassimo a vedere una partita della Fortitudo, mi guarda. Willy, no, sempre giocoso, tranquillo. Mai. Come mai? Non è ovviamente colpa della Fortitudo, è in generale di una pallacanestro che io non capisco. Che non ti piace più. Che non capisco. Comunque il buongiorno arriva da Lino, buongiorno a te Lino, anche lui tifoso per la F scudata. Il buongiorno a Cinzia e il buongiorno a Luigi che guarda, per par condicio dico che il messaggino più bello finora è arrivato dal tuo supporto per le comunicazioni con il 333-180-9494. Lui ovviamente non è esattamente sponda Fortitudo e scrive: puntata da far ascoltare al garante per la par condicio. Non diciamogli che sono io il garante. Tu sei Abbiamo fatto tante puntate anche per quanto riguarda Casa Virtus, assolutamente il Mood Groove non è un contenitore fazioso, ha una appartenenza, ma questa non viene mai tra virgolette esaltata, a parte prima quando ho sentito l'inno, ma questo è stato anche fuori diretta, per cui non avete visto nulla, mentre invece dovete dare assolutamente attenzione per il sostegno di questo progetto. A te la parola, Marco. Assolutamente sì. Allora, noi l'associazione per il Museo Fortitudo, per sostenere le spese che sono intorno ai 25.000 euro, fra l'altro appunto sono dettagliati poi in questa piattaforma di cui vi sto parlando adesso, e oltre a degli sponsor che sono tifosi Fortitudo ma non solo, hanno dato una mano per appunto questo prestigioso allestimento, abbiamo messo in campo appunto un crowdfunding per riuscire a raccogliere ulteriori cifre per riuscire a coprire il tutto, perché comunque abbiamo un obiettivo di 15.000 euro, che non è poco, e questo ci consentirebbe anche di mettere in progetto, come dicevamo prima, non ovviamente un museo permanente, ma sicuramente la possibilità di poter così magari comprare nuova roba, perché comunque i collezionisti ci sono e mettono in vendita prezzi allucinanti, comunque comprare, acquistare nuova roba per il museo, ma quindi continuare anche questo percorso che vedremo poi quest'anno se ce la conferma. Riscuote un grandissimo successo. La piattaforma si chiama Eppala, mi sembra. Comunque sui social trovate tutto qua, le adesso indicazioni non e i link per esatto. andare a ci sono sostenere. Tre tipi di tipologia per accedere a questo motivo di sostegno, a questo motivo di sostegno. Ma ovviamente uno, se vuole donare 5 euro, può donare 5 euro, che va bene. Beh, anche quello, assolutamente, possibilità, esatto, diverse esatto. possibilità. Questo comunque resta poi alla base di un tifo che è quanto mai esteso, carica di passione. Beh, la tifoseria Fortitudo sappiamo bene che è tra le più calorose, non dico a livello nazionale ma oltre, per cui dopo aver dato queste indicazioni, che mi raccomando memorizzatele, e oltretutto ricordo che del Breakfast Club ci sarà la possibilità di ascoltare la registrata sul mio profilo personale Facebook e anche sulla paginetta Breakfast Club Fujiko. Io invito anche la società però a dare un contributo. Certo, no, ma anche la società ovviamente contribuisce a questo tipo di, oltre a dare il patrocinio, che il patrocinio fra virgolette quello è non oneroso, no? Però in realtà anche la società si è spinta per poter dare una mano a questo progetto. Poi è chiaro che la bellezza di questo progetto è che sono i tifosi per i tifosi. Sì. Parlando della società Fortitudo, per cui è bella anche l'autonomia che ci si è data rispetto alla società. Poi se c'è un percorso che la società vuol fare è benvenuto. Però la cosa bella di questo è che nasce dai tifosi, che è una delle cose che per la par condicio non va bene, però abbiamo magari noi e magari non altri probabilmente. Contraddistingue in maniera particolare la F Scudata. E sarà fino al? Al 29. Ho apprezzato molto anche l'immagine di copertina con il sindaco che esulta. Ricordo bene quella partita, perché per me è stato l'apice Fortitudo quella lì, quello è stato l'apice Fortitudo. Non sono stati gli scudetti, non è stata la partecipazione in Eurolega, no. Io ho una Fortitudo, diciamo, vecchio stampo, dove dalla A2 partecipavano 4 squadre alla griglia dei playoff con le squadre di A1. La Fortitudo, arrivando dalla A2, cacciò fuori dai playoff con sole 2 partite la Virtus. Ed è stata la Fortitudo più bella. Bryant, Garnett, Bucci, Albertazzi, Masetti, Zatti. Pensa che lì c'è la maglia di Masetti, che è quella l'ho donata io perché sono riuscito ad averla. C'è la maglia di Masetti di quell'anno lì, spettacolare. Quell'anno yoga è come tutte le rose, dura un sol giorno, però posso assicurare che l'aroma è stato intensissimo, sai, e indimenticabile. Sai che cosa, per venirti dietro rispetto al fatto che il basket è cambiato, che negli anni 80 lì eravamo nell'88 se non mi ricordo male, c'era un sapore diverso. Anni 70 80, c'era un odore diverso andare a vedere la pallacanestro. Poi sì. I soldi, come nel calcio, hanno rovinato tutto. Il calcio si è mantenuto, la pallacanestro invece ha subito quello che ha subito, per cui andando a perdere quel sapore. Secondo me un po' adesso in Fortitudo, quindi spezza una lancia a favore della nuova società, si sta respirando nuovamente, perché siamo in A2, una squadra che comunque non doveva essere dov'è, siamo primi in classifica. Combattono, hanno orgoglio Fortitudo, come ci piace vedere a noi, per cui diciamo che buona parte anche del coach in questo caso, però va bene. No, certo, anzi fai bene a tenermi informato. Secondo te perché Pietro è presente? Beh, infatti secondo Paolo, me dovresti seguire le indicazioni, perché capisco essere disinformato, ma proprio ignorante così no, non va bene. Beh, Giacomo Zatti, Jack, Striscio, il capitano di quella Fortitudo e ovviamente il mio salto, arrivai in campo al momento dell'approccio suo in conduzione di fase offensiva, intravede Kyle Messi sbilanciato, prende il primo passo, Giacomo Zatti un atleta incredibile e a difesa schierata nonostante gli aiuti di Stokes e Barnes, che fa? Va a schiacciare, alto 1,90, e mette un sigillo non tanto di risultato ma di entusiasmo. Assolutamente. Quello spaccato di partita che fa dire al tifoso: questa non la perdiamo neanche se vogliamo, questa non la perdiamo. E in effetti è andata così. Ci pensò poi il più grande giocatore, secondo me, maglia Fortitudo, che è George Bucci, a mettere buono canestro più fallo, cercando il fallo su Marty Byrnes. Gioco da tre punti realizzato e quindi fu insomma un trionfo importante per la Fortitudo proveniente dalla A2. Abbiamo citato e abbiamo fatto uno speciale su Charles Jordan. Grande. Il compianto, uno dei miei, anzi il mio primo idolo, poi per me più grande George Bucci, Mancinelli che ha portato Pietro dalla Toscana, però assolutamente appassionato di basket bolognese. C'è un atleta, un cestista Fortitudo che ha rapito il tuo cuore, Oddo? Cavolo, ce ne sono diversi, purtroppo è quello. A bruciapelo, sono, dimmene uno. Sono legato, beh, a me, anche a me viene da dire il sindaco Zatti. Non per nulla mio figlio si chiama Giacomo, ma vabbè. non voglio dire. Però insomma, sicuramente Giacomo era l'icona dell'epoca. Poi quella immagine che abbiamo usato per il museo, quello 82-83, quello è riferito a un altro derby ancora, vinto in trasferta in casa loro, spettacolare, quei pugni alzati, no, per me era il top. Infatti sono tutto cuore. Sì, assolutamente, cuore forse. Peccato che quando se ne andò da Bologna, se ne andò un po' in polemica con la tifoseria, sì, all'epoca. Beh, ma questo poi è dopo tutto appianato ovviamente, tuttora ci si sente, per di cui quei basket a cui sono un po' distante, diciamo così. A proposito di grandi figure, abbiamo il Barone, che non può mancare in questo Dream Team. Assolutamente. Scuola Fortitudo, a lui è stata portata anche una colonna sonora. Assolutamente, questo 45 giri, poi ne parliamo, sarà al museo anche ovviamente. Sangue indiano di un bambino, nato da un pelle rosso ad un soldato blu. Questa è la storia di un indiano Cherokee. Questa non è una favola, questa è la mia storia. Mi ricordo ancora da piccolo, quando cavalcavo i Mustangs a pelo e giocavo felici con l'arco e le frecce e con la libertà. Ora non so cosa resta di quei giorni, ora non so dare un senso a quel che ho. Cosa avrò, cosa sarà? Cerco me senza pietà, solo piango la libertà. Non resterò, la valigia l'ho già fatta. Non resterò, città grande io ti lascio. Partirò e mi rendrò, più nel cemento camminerò, la mia vita io cambierò. Gary Baron Shule in un'altra dimensione, ora noi lo salutiamo, il grande cuore del Barone Fortitudo numero 13, di lui l'immagine a pugni alzati, ferito, guerriero, grande rimbalzista. Durante un derby, durante ricordiamo. Un derby. cercherò una testa lata. Allora, pensate che Gary Baron Shull, quando adesso qui c'è tutto un suo percorso romanzato, come è giusto che sia. Assolutamente, ma è bellissimo questo 45. Sì, è un 45 giri. Esatto. E aggiungo questa particolarità per USA in Italia. Questi atleti, quando scrivevano, guarda che qui io sono sempre in quintetto base, sto vincendo la classifica dei rimbalzisti, viaggio oltre 20 punti di media. Risposta, impossibile, impossibile. Sei triste che non ti si guarda e lì pensi di fare il fenomeno. No, la situazione era quella. La situazione era quella. Pensate un po' quante cose sono cambiate. Fra l'altro, a proposito di trasformazioni, passiamo quindi in fase difensiva con Balla e Difendi ogni lunedì alle... dalle 22 alle 23. Dalle 22 alle 23, sì. Io sono rimasto subito colpito da questo titolo perché, insomma, per me la difesa era, sì, possiamo definirla un balletto sull'avampiede in posizione di tensione, lo scivolamento aiuta e recupera quant'altro, però insomma non è divertente come ballare. Come ballare, no, assolutamente, però... no, è una cosa differente. Però il titolo ci sta. No, il titolo ha tutta una sua storia che nasce appunto da quel disco di cui abbiamo parlato fra l'altro la scorsa settimana, uscito a Roma, che l'intento era proprio quello, nel senso di fare passare dei messaggi decisamente importanti, politici ovviamente in questo caso, e però passandoli tramite la musica in maniera che si potesse ascoltare in maniera anche decente, perché all'epoca la musica, parliamo degli anni 91, 92, la musica non era così nitida, pulita, eccetera, no? Le parole erano, certo. E invece la scelta di cantare in italiano, fra l'altro un disco dove ci sono, c'è dell'hip hop, c'è dello ska, del punk, c'è di tutto, è stato e quindi ha fulminato tanti di noi su quello, su, come posso dire, su quel messaggio lì, Balla e Difendi. Positivamente. Fiesta sì, lucha también, direbbero in Spagna. Io ringrazio Pietro che è riuscito a raggiungerci per queste ultime battute del Move to Groove odierno, dedicato all'associazione Museo Fortitudo in Sala Borsa dal 14 al 29 dicembre 2023. Un grande abbraccio, ti ringrazio tantissimo, Oddo. Fare co-conduzione con te è sempre un piacere. Ascolta, rubo altri due minuti per dirti una cosa. Uno, ci sarà l'esposizione, perché secondo me è interessante, visto che abbiamo parlato del tifo, ci saranno degli spazi, un paio di spazi dedicate alla faccia da Fortitudo, la faccia da tifoso. Quindi ci saranno delle immagini dei primi piani sul pubblico Fortitudo e ci sarà anche un piccolo spazio dedicato alla fossa. E questa è la prima volta che facciamo una cosa di questo genere. La sezione fotografica. Per cui sezione fotografica, assolutamente. Dopodiché ci saranno altri due piccoli eventi all'interno del museo, uno che sarà una presentazione di un libro di Matteo Girardi intitolato Una magnifica ossessione, la prefazione l'ha scritta Filippo, storie di basket da Bologna negli anni 80 e 90, questo sarà il 21 dicembre. Il 22 dicembre invece presenteremo una figurina solidale del figlio conseguenziale di Zatti, Davide Lamma, sì. Ha preso lo stesso numero, giocava lo stesso ruolo e quindi sarà una figurina solidale che presenteremo il 22. Tutte e due queste iniziative saranno alle ore 18. Bene, mi taccio. Precisione. No, anzi hai dato proprio esaustiva spiegazione. Ringrazio tantissimo anche Paolo Onofri da remoto per il contributo al Move to Groove odierno. A breve Liberi Dentro seguirà rassegna stampa sui 103.1. Mi raccomando, non perdete il vinile quotidiano dalle 10.30 alle 12.30, curato e condotto da Andrea Gozza. Domani il Voltiamo Pagina, mi raccomando, per la prima colazione in diretta puntuali alle ore 7, Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Grazie di cuore, Otto. Grazie. Ciao. Grazie a te dello spazio. A tutti. A domani. Ciao, ciao caro. Ciao. Vediamo a vedere al palazzo. A voglia.